sé yo, viene lento divagar una música brutal, encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Ci sono dei momenti pregni di nostalgia nella nostra fanciullezza, nella nostra adolescenza, nella nostra età matura, a seconda di quando il destino ci collocò nei felici anni 70. E parlo dei momenti in cui si andava al cinema a vedere dei film detestati dalla critica ufficiale, considerati un sottogenere, ma che noi cerchiamo di glorificare ogni settimana. Già lo facemmo nei giorni passati, parlando di quel meraviglioso filone di film strappalacrime, dei cosiddetti lacrima movie, che ancora hanno lasciato una traccia indelebile di lacrime miste a catarro nella scia del ricordo dei nostri ascoltatori. E oggi passeremo a un altro formidabile genere, i poliziotteschi. Dottor Bertone, parliamoci chiaro. In città la gente è terrorizzata, non si sente protetta. Riceviamo valanghe di lettere di protesta che ci domandano che fa la polizia per difenderci da questa delinquenza scatenata. La gente non si sente protetta dalla polizia, è vero, lo so. Ma neanche noi ci sentiamo protetti da chi ci dovrebbe coprire le spalle. Ce l'abbiamo tutti contro con il fucile spianato, tutti. Giudici, giornali, partiti. A volte sembra che i delinquenti siamo noi. Solo quest'anno, in questa città, quanta gente è stata ammazzata? Troppa, lo so. Ma tu sai anche che di assassini ne ho messi al fresco parecchi. E ci metterò anche questi, almeno spero. Questo era La polizia ringrazia, il capostipite fulgido di tutto un genere, un film in cui c'è Enrico Maria Salerno, Mariangela Melato, grandi attori. Poi naturalmente si andranno a sostituire con attori apparentemente meno di rango o meno appartenenti all'Olimpo di quelli più proclamati, ma che si conquistarono una fulgida presenza nel nostro immaginario per la loro reiterata partecipazione al ruolo di commissari. Commissari, poliziotti, sempre molto in contrasto con i vertici della loro organizzazione, o per eccesso di attività manesca, di interventismo, di volontà di fare giustizia con le proprie mani, o perché gli unici puliti in un mondo corrotto. Erano i felici anni 70, in cui l'Italia stava in un periodo molto oscuro, tra austerità, tra pressioni sindacali, crisi economiche e il primo approssimarsi degli anni di piombo, quindi probabilmente qualcuno da dare un'immagine di compattezza, di forza, di reale consistenza dello Stato attraverso le forze dell'ordine. Non sempre il tentativo riuscì perfettamente, ma riuscì comunque a collocare nel nostro immaginario qualcosa di potentemente forte. E quegli inseguimenti con le vecchie Alfone, con le Giulie 1600 Super, macchine che oggi farebbero sorridere, sono soltanto nei ricordi. Probabilmente chi oggi ha meno di 30 anni nemmeno l'ha mai vista, ma forse anche meno di 40 anni. Erano dei carrozzoni tozzi e ridicoli, ma allora considerati il fiorfiore della forza di un'automobile. E poi c'erano questi poliziotti con armi ridicole rispetto a quelle che oggi si vedono nei film poliziotteschi e di azione, le Desert Eagle, le mitragliette potentissime. Avevano delle vecchie Beretta residuati bellici, avevano delle mitragliette che oggi non esistono più nemmeno nei musei, però erano anche molto, molto efficienti. Quando combattevano, cominciavano a mettere in atto quelle che erano le prime mosse di quello che noi pensavamo fosse il karate, che si limitava semplicemente a dare dei calci all'altezza dello stinco del ginocchio, perché a più non arrivava alla loro forma fisica, e a colpire con la mano distesa, con quel famoso colpo di taglio che sembrava riassumere in sé tutte le potenzialità dell'arte marziale più innominabile. Guardate le armi! Non provate ad avvicinarvi o le ammazziamo! Capito? Non avvicinatevi! Con l'ammazzo! Fermi! Guardate che facciamo sul serio! Dannati bastardi! Andate all'inferno! Dovete andarvene subito, figli di puttana! Volete che la sgozzi? È questo che volete? Vi prego! Questo era Cani arrabbiati, delle scene sempre molto truci. Cominciava ad entrare anche la componente sadosessuale, giustificata dal contesto criminale. Io ricordo che i criminali erano sempre molto particolari, vederli oggi fa sorridere, erano sempre dei maglioncini attillatissimi, delle camicie con dei grossi colli, avevano i jeans scampanati, erano con dei capoccioni grossissimi, perché l'uomo di quegli anni era un uomo tisico, era un uomo dal torace inesistente, dalle chiappe opime, basso, tozzo, con un grande capoccione, perché andavano di moda i capelli lunghi. Ecco, i criminali erano l'apoteosi della burineria, che rappresentava il modello estetico più percorribile in quegli anni. Giuseppe Sansonna, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Giuseppe Sansonna è regista, critico cinematografico, autore dell'indimenticabile Zemanlandia, che noi annunciamo ogni settimana, ma in questo caso è l'esperto numero uno in caso di B-movie. Ecco, andiamo a lambire un genere molto particolare, perché mette insieme non soltanto il desiderio di mostrare un film di efficienza, di forza, ma sotto sotto, ma abbiamo già detto nella prima edizione del nostro Melog B-movie, andava a toccare alcuni punti dolenti anche dell'apparato statale. Assolutamente, l'antecedente nobile americano era il Callaghan sull'asse Don Siegel Clint Eastwood, ovvero il poliziotto rude con le mani legate dai laccioli burocratici, che invece è molto d'azione, di impatto, e riesce a risolvere in maniera pratica e sbrigativa tutte le questioni col suo pistolone e con la sua forza fisica. In Italia ovviamente trovava nei vari commissari che poi andremo sì, a vedere, con delle ridicole berrettine 7,65, faceva ridere la loro potenza di fuoco, però ci si provava. Esatto, si passava da Clint Eastwood al primo commissario, che è Enrico Maria Salerno, con parrucchino grigio topo, che insomma con le sue convinzioni un po' democratiche, un po' rudi, cerca di contrapporsi alla malavita. Sì, erano anche gli anni in cui si cominciava a profilare l'idea dei sindacati anche nelle forze dell'ordine, nei militari, i primi sindacalisti militari che andavano in giro bendati, cioè con la faccia coperta per non farsi riconoscere. Non c'era l'idea che nel campo delle forze dell'ordine ci potesse essere anche l'idea che fossero anche dei lavoratori. È un termine molto desueto, ma questo era il senso. Sì, sì, sì, c'era un po' tutte queste questioni. Comunque era un cinema che trovava la sua fruizione ideale nei cinema di quarta e quinta visione, e poi traslocato in televisione nella luce disturbata, nel catodico annebbiato delle TV private, cioè quel livido che si assommava al livido della foto già esistente nella fotografia. Ecco, tu che sei anche regista, perché erano tutti verdolini questi film? C'era un colore pessimo. C'era forse una coscienza estetica era una ricerca naturale, non era la carenza di mezzi. No, c'era una coscienza estetica di rappresentare anche lividamente sia un cinema livido che una società livida, queste borgate, queste zone periferiche, questi sobborghi metropolitani, che era come guardare un sacco tagliato di burri. C'era bello che ogni città era rappresentata: Milano ringrazia, sì, Palermo violenta, Canicattì cattiva. A un certo punto c'era un'espansione territoriale di questo fenomeno, vero? Assolutamente, cioè le città diventavano assolute protagoniste, erano le città riviste alla luce particolari. Comunque l'antecedente che abbiamo citato era La polizia ringrazia, che è un po' il capostipite nobile di questo genere, che è del 72, però da un lato si svilupparono vari filoni, poi c'è quello di Di Leo, che è la trilogia del Milieu tratta dai noir di Giorgio Scerbanenko, è molto più sottile e raffinata, cioè Fernando Di Leo era effettivamente un vicino a Don Siegel anche ironico di Charlie Varrick, cioè Don Siegel usò Walter Matthau in una parte noir, cioè un attore comico in una parte noir, e così fece Di Leo con Castelmoschino. Stiamo tracimando su Radio 3, attenzione, sì, perché il nostro pubblico è molto più rozzo, e lo dimostra Marco. Marco, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Qual è l'idolo fulgido al centro della sua attenzione del film poliziottesco? Io ricordo con simpatia, ogni tanto li ridanno questi TV locali. Eh sì, degli illuminati canali satellitari. E ce n'è di tutte, diciamo, per tutte le espressioni. Sì, ma lei chi è che ricorda? Chi era che giganteggiava al centro di tutti questi film? Lo dica. L'attore? Certo. A me, per esempio, mi piaceva tanto Maurizio Merli. Ecco, ci siamo alzati in piedi. Maurizio Merli era sì, il commissario per eccellenza. Il commissario buono e cattivo nello stesso tempo, perché a me, io mi ricordo tutti questi film, Napoli spara, Roma a mano armata, Milano, San Babilo, morti inutili, me li sono guardati tutti. E quello non era tanto poliziottesco, Milano, San Babilo, morti. No, era un po' fondo politico. Era fondo politico, mostrava sì. I San Babilini che ammazzano sì. A coltellate un ragazzo solo perché aveva l'eschimo, e che in realtà avevano delle coperture, più a sfondo sì, politico. In un certo senso hanno rivisto un pochino le città, quello che dopo... Però toccava il sublime nella scena del fascista che non riesce a accoppiarsi con la sua fidanzata e usa il manganello, devo dire che toccavano delle vette sublimi. Lo ricordi, Sansone? Come no, certo. Beh, andiamo avanti allora, Marco, nel suo ricordo. Io mi ricordo questi film che all'epoca io ero un bambino, io sono del 64, sicché... C'ha 10 anni meno di me, tanto per cominciare. Sì, però ecco, ti facevano vedere un attimino quello che non è che si seguissero tanti giornali, diciamo noi ragazzini all'epoca, sicché un attimino ci facevamo abbindolare da quello che erano... Sostituivano la cronaca. Sì, perché io vivevo in un paesino, siamo compaesani, io sono di Umbro, anch'io sono di Foligno. Ah, Foligno, Foligno è il centro del mondo, però è tutto un altro mondo. Però non è che succedesse un granché, no, sicché vedevamo questi film per questo Milano, si dice Roma. Foligno, si dice che è lo centro del mondo, perché è il centro di Foligno è il bar dove c'è il biliardo, il boccino. Il bar è Sassovivo, il birillo rosso del biliardo. Quindi di Sassovivo, lei pensa una popolazione umana che vive concentrata sul birillino rosso del bar Sassovivo, non ha che la guardarsi la pancia quando arriva Maurizio Merli, è un grande evento. Sicché questi film a me mi hanno fatto un attimino conoscere quello, io oggi vivo a Firenze, ma è quello che era un attimino le città, le vedevamo un attimino... Non come... dica più attimino, sennò devo segarla, mi scusi, è proibito. No, non mi segui. La mia religione lo proibisce. Va bene, comunque io li riguardo sempre abbastanza con volentieri. Grande piacere, grazie, sì, Marco, sì. Grazie. 800 24 00 24, cominciate a dare fondo, come ha fatto Marco, al vostro attimo di autocoscienza legato ai film poliziotteschi. L'americano ti vuole. Perché? Rivuole i suoi $300,000. Ti hanno messo dentro il giorno stesso. Non puoi averli spesi. Dice che le vuole. E subito. Se le restituivi prima del processo, l'americano ti avrebbe perdonato. Cioè, perdonato no. Ti avrebbe spaccato la testa, spezzato un braccio. Forse castrato, non lo so. Lo sai com'è? Sì, lo so com'è. E lui sa anche come sono andate le cose. Allora, Ugo, che ci devo dire all'americano? Che non ci verrò, che non ho niente da dirgli. Giuseppe Sansonna, questo era Milano Calibro 9. Sto riflettendo su quello che ci ha detto l'ascoltatore Folignate. Dice, allora non c'erano grandi informazioni, il film poliziottesco rappresentava per immagini quello che oggi sono i contenitori televisivi di attualità, di cronaca, i tanti telefilm americani, la molteplicità dei canali. Allora c'era il telegiornale, che era una messa cantata, al massimo Zavoli che intervistava le monache. Esatto, poi erano film fatti anche molto velocemente, quindi stavano molto sulla notizia, stavano sul pezzo e raccontavano frammenti di cronaca, li rielaboravano in maniera molto rapida, veloce, incisiva. Questo che abbiamo ascoltato adesso è Milano Calibro 9, appunto, che dipinge questa Milano bluastra, livida, con queste musiche di Bacalo. È la trilogia del Méliès, come dicevi, quello lì. Sì, con un grande attore Moschini, che era un attore comico reinventato in questa parte. Qui Tarantino ha saccheggiato pienamente, qui c'è una grandissima... Ecco, diciamo la contaminazione. Il nostro cinema illustre, alto, in pochissimi esempi, è un cinema che fa scuola anche all'estero. All'estero fa molta scuola, invece quello viene considerato un B-movie. Ci sono sale cinematografiche negli Stati Uniti che mandano a ciclo continuo i film di Dario Argento, sì. Mi hanno detto. E il film cosiddetto poliziottesco è stato un genere ispiratore di Tarantino, che considero uno dei più grossi autori di cinema contemporaneo. Assolutamente, bisogna fare dei distinguo, secondo me, perché Di Leo sicuramente ha una maestria tecnica, una bravura anche nell'uso dei carrelli, nell'uso delle inquadrature. Cioè, Milano Calibro 9 inizia con uno scambio di borse che è stato ripreso pari pari in Jackie, sì, Brown, e poi un uso della musica perfetto, molto, molto incisivo. Un uso di attori strepitosi come anche Mario Adorf, il calabro tedesco, che faceva questa parte da iperdelinquente, iperteso, che è molto connotato. Allora, sai, è bello anche come strumento antropologico. Non si parlava di gang straniere se non di americani, di tedeschi, non si parlava allora di albanesi, di malavita ucraina. La caduta del muro cambiò completamente l'immaginario rispetto allo stereotipo delinquenziale. Se oggi questi autori dovessero rifare dei film, avrebbero un'infinità di ispirazioni rispetto a quelle di allora. Erano dei poveri ritratti degli emigranti quando tornavano per Pasqua, erano i cattivi di allora. Certo, infatti il punto è che oggi si è edulcorato tutto nella luce da interno giorno delle fiction, che ammorba tutto e appiattisce tutto. Comunque questi film in ogni caso trascinavano frammenti vivi di realtà, scheggi di realtà autentica, viva, e anche con loro. Lorenzo, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, complimenti per la trasmissione. Si è commosso a sentire quello che stiamo dicendo? Io sono un appassionato, veramente allora... un argomento... La stiamo interrogando allora. Particolare. Cosa c'è, una bomba orologeria? Sento ticchettare sotto. No, sulle quattro frecce. Ah, si è fermato con la macchina. No, perché pensavo per entrare nei clienti. Succedeva ogni tanto che esplodessero le macchine dei poliziotti. Era sempre l'avvertimento o dei colleghi corrotti o della malavita, per far capire che aveva invaso il territorio. Cosa la colpiva lei di questi film? Cosa ricorda? Allora, come commissario ricordo con affetto il commissario Betti, per nominarne uno. Sansonna, tu sai, sì, Maurizio Merli commissario Betti, certo. Esatto. No, sì, però c'è una cosa, io non capisco di cui parlare io, era la musica, sì, la ecco, cosa che mi colpiva di più. Posso fare solo piccola parentesi personale, lo chiedo a lei, lo chiedo a Sansonna, come mai il commissario per eccellenza, quello che ricordiamo di più, il compianto Maurizio Merli, era così kitsch, come, perché aveva un parrucchino, di capelli tinti biondi come Geppetto, dei baffi scuri neri, un fisico non proprio prestante. Sansonna, tu perché aveva questa, allora, fortuna? Tutto nacque da Franco Nero. Franco Nero è stato usato da Castellari. Franco Nero era molto bello, particolare. Lenzi chiese Franco Nero a Castellari, ma non si misero d'accordo. Costava troppo. Allora ne inventarono uno nuovo di sarampiato, lo strapparono al set garibaldino. Maurizio Merli gli misero questo parrucchio e quindi diventò un chip, un Franco Nero chip, una versione che però poi spopolò. Veramente un mito. Maurizio Merli poi diventò lui il commissario per eccellenza. Diventò Maurizio Merli, si impose come. Sì, perché Merli, ricordo, anche lui era un commissario molto attivo, però. Quando combatteva faceva questo karate da manuale comprato alla stazione, che a noi piaceva tanto, tra il colpo di taglio e il calcio sugli stinchi, perché più in su non poteva arrivare la forma fisica medica dell'italiano anni 70. Scusi Lorenzo, l'ho interrotta, ma no, volevo parlare della musica. Andiamo. Perché mi sembra uno degli elementi fondamentali di quei film, nel senso la qualità, cioè tra la poca qualità tra virgolette del film in sé, B-movie, ha invece l'altissima qualità della musica di quei film. E cosa ricorda lei, cosa può citarci? Ma io mi ricordo vagamente degli autori, ma non so se sono corretti, come può essere Rizzo Ortolani piuttosto che Piero Umiliani, certo, piuttosto che Trovaglioli, se non sbaglio. Sì. Ma secondo me senza quella musica i film sarebbero stati di ancora di un'altra categoria ancora più bassa, diciamo. Ma poi c'erano Michalizzi, c'era Stelvio Cipriani, che davano grande ritmo, insomma, adrenalina pura. Gli inseguimenti senza quella musica sarebbero stati nulla. Sì, questo anche perché vedere le vecchie Giulia 1600 era un po' patetico, non erano macchine proprio che avevano l'idea dell'aerodinamica nel senso eccelso e marinettiano del tempo. Termine, erano dei carrettoni quadrati che sì, smarmettati, facevano un bel rumore. Esatto. Vabbè, Lorenzo, semplicemente questo. Grazie. Ancora. Riprenda pure la sua marcia. Vogliamo dire qualcos'altro sulla musica? Perché la musica è vero, la musica era di grandissima qualità. C'era il clavicembalo di Michalizzi che si imponeva su tutto, che regalava adrenalina, appunto, queste inquadrature delle sirene prese d'Italia, queste sirene che entravano in campo, che poi saranno riprese dalla pallottola spuntata. Sì, ma io che erano fatte con un carrellino con sopra. Sì. Era un lampeggiante appoggiato su una tavoletta davanti alla camera che si muoveva. Sì. E praticamente era quella la sirena. Sì, io ricordo la pallottola spuntata, le sirene. Che fa entrare questa sirena ovunque, nei bagni pubblici, soprattutto sì. Entra con questo carrello continuo dalla sirena. Però appunto riuscire a non rendere ridicola quella scena era la musica effettivamente a dargli adrenalina e a dargli ritmo. Melog 2.0. Ma come mai non l'hai fatto fuori quel cornuto di poliziotto? Perché quando lo farò fuori mi dovrà guardare in faccia. Mi dovrà guardare in faccia e tremare di paura. Se deve cacare sotto quello stronzo. A proposito di stronzo, stamattina stavo al cesso. E guarda che te ci trovo dentro la tazza. Ma come mai? Perché sono un miracolato io. Sai qua la Santa Chiara là che sputava le margherite? Perché era protetta da Dio. Ma io che so protetto da Satana, attacco il piombo, capito? È proprio con questa che voglio sistemare quel giustiziale del cavolo. I mortacci sua, vedrai te. Qua siamo nel sublime poetico, nel surreale. Allora, questo delinquente, la mattina andando in bagno, espelle intestinalmente la pallottola con cui gli avevano sparato, la recupera, la ricalibra e la tiene per uccidere il poliziotto che l'aveva colpito. Di cosa stiamo parlando, Sansone? Stiamo parlando di Roma a mano armata del 76 di Umberto Lenzi. E qui c'è un personaggio che viene introdotto, che viene direttamente da Notre Dame al quarticciolo, e il gobbo di Thomas Binion, che ha la voce di Ferruccio Amendola, un personaggio che ha il carisma sul furio di Milian, che ormai ha abbandonato definitivamente i salotti di Bolognini e di Visconti da dandy molle sofisticato, e ha degradato la propria bellezza e il proprio essere un sex symbol in questo personaggio. Sì, perché c'è un film strappalacrime terrificante del dopoguerra sul gobbo del quarticciolo. Esatto, no? Di Lizzani. Invece questo è un gobbo molto più popolaresco, molto più virulento, che ha appunto ai tratti